In the next dialogue, you'll hear another possessive adjective, my. As with the word for his or her, my has two forms in the singular. The masculine, il mio. Dov'è il mio passaporto? And the feminine, la mia. Dov'è la mia borsa? There are also two different forms in the plural. Masculine, i miei. Dove sono i miei soldi? And feminine, le mie. Dove sono le mie carte di credito? To practice the possessive adjectives you've learned so far, listen to these questions. If you hear the word for his or her, change it to my. For example, if you hear... È la sua camera? Is it his, her room, you say? No, è la mia camera. No, it's my room. And if you hear... È il mio passaporto? Is it my passport? Say... No, è il suo passaporto. No, it's his, her passport. Ha capito? Did you understand? Bene. Dopo la pausa, ascolti la risposta esatta e ripeta. After the pause, listen to the correct answer and repeat. Cominciamo. È la sua camera? No, è la mia camera. È il suo passaporto? No, è il mio passaporto. È la sua borsa? No, è la mia borsa. Now for the plural forms. But this time the word for his, her, suoi, masculine, sue, feminine, will mean your formal. If you hear the question, sono le sue carte di credito? Are they your credit cards? You reply, no, non sono le mie carte di credito. No, they're not my credit cards. And if you hear the question, sono i miei occhiali? Are they my glasses? Reply, no, non sono i suoi occhiali. No, they're not your glasses. Cominciamo. Sono le sue carte di credito? No, non sono le mie carte di credito. Sono i suoi occhiali? No, non sono i miei occhiali. Sono i miei soldi? No, non sono i suoi soldi. Sono le mie penne all'arrabbiata? No, non sono le sue penne all'arrabbiata.